C'è spazio per chiudere con che cosa? Parleremo di finanziamento ai partiti, eccetera. C'erano altre segnalazioni, ma voglio chiudere con un sorriso che viene dalla Gazzetta dello Sport, e non è l'inutile titolo per gli illusi: il Milan si tira su, ma insomma il campionato da mesi, come vi ho detto, da mesi ormai, della Juventus. Il rompipallone di Gene Gnocchi, nuovi segnali di un possibile ritorno di Balotelli a Milano. Ieri il sindaco Pisapia ha indetto un concorso per 200 nuovi vigili urbani. 24 mattino. Sono le 8:20 in punto, ben ritrovati da Alessandro Milan, eccoci qua allora a parlare ancora di Lega. Lo facciamo con il presidente della provincia di Bergamo, Ettore Pirovano, leghista DOC. Presidente, buongiorno. Buongiorno. Senta, buongiorno a voi tutti. Ieri nella sua Bergamo, 10 aprile 2012, è finita la Lega di Umberto Bossi? No, è nata una nuova Lega con Umberto Bossi e senza gli anfitrioni che l'hanno sfruttata. Chi sono questi anfitrioni? Lo stesso Bossi ha chiesto scusa per quelli che portano il suo nome. È stata individuata anche una responsabilità politica, quella penale o finanziaria sarà approvata dai giudici, per l'attuale vicepresidente del Senato Rosi Mauro, alla quale ieri è stato chiesto: per favore non andare in trasmissione e dimettiti, e lei se n'è assolutamente infischiata e è andata in trasmissione, ha fatto quello che voleva, non si è dimessa, quindi quello che succederà oggi in Senato è anche responsabilità sua, e quindi credo che o giovedì o venerdì, quando ci sarà la riunione del Consiglio federale, saranno presi provvedimenti verso un membro della Lega che non ha obbedito alle indicazioni del movimento, quindi credo che sarà espulsa. Verrà espulsa. Come Maroni ha detto chiaramente, voglio dire, ha detto: non si è dimessa lei, la dimetteremo noi dalla Lega. Più chiaro di così. Più chiaro di così. Bossi è stato grande anche ieri sera a Bergamo, perché credo che per un padre, indipendentemente dalla scorza che possa avere un politico di lungo corso come lui, chiedere scusa per i propri figli non deve essere facile di fronte a 7-8 mila persone. Questo sì, non deve essere facile. Lei, fosse suo figlio Renzo Bossi, che penserebbe? Io l'avrei preso a calci nel sedere. L'avrebbe preso a calci... Avete capito, Pirovano è una persona schietta, è una persona che parla così. L'avrebbe preso a calci nel sedere, perché? Sì. Ma prima... Cioè, quello è stato il grave errore, farlo entrare in politica. Però lui dice: io ho preso 12.000 voti, è vero che il cognome avrà pesato, no? Renzo Bossi. Guardi, uno può avere tutte le capacità di questo mondo e avere l'appeal per farsi votare e fare in modo che la gente creda in lui, e questo è ancora più grave, ma se ha un nome come quello di Renzo, oppure un nome meno altisonante come qualcuno dei miei colleghi, e poi se ne approfitta e offende le persone che hanno riposto in fiducia in lui, fa ricadere sulla famiglia che lo ha generato un velo di tristezza e di rancore che è veramente, credo, dolorosissimo per il cuore di un padre. Anche se ha sentito, non so se segue Diva e Donna, però avrà visto le anticipazioni d'agenzia, un altro figlio, Roberto Libertà Bossi, ha detto: viviamo in un paese di merda, sono schifato per quello che ci stanno facendo. Sua egemonia, ci siano le fogne che non funzionano, non vedo le cose si possa riferire. Insomma, non c'è nessun tipo di giustificazione per i figli o alcuni dei figli di Renzo Bossi, no, di Umberto Bossi. I figli di qualcuno che è importante devono stare molto più attenti di una persona che è meno importante, sicuramente, perché il loro comportamento negativo si riflette, a parte sulla famiglia, si riflette sul movimento, sulla ditta, sul negozio dove lavorano, e questo danneggia in ogni modo tutta la catena della dignità di una stirpe anche. Però, presidente Pirovano, si è sempre criticata la Lega per essere un partito molto legato all'icona del capo, e spesso si è detto anche un partito dove chi sgarrava veniva cacciato. Ecco, anche questa idea di Rosi Mauro, che può avere fatto tutti gli errori del caso, secondo voi, che ora ha subito una vera e propria purga pubblica, cioè verrà cacciata, che segnale date come partito? Cioè, una persona che non è in linea viene cacciata e... E qui non si tratta di linea. non c'è una linea teorica, non è una setta religiosa, ci sono dei comportamenti che derivano dalla convivenza civile anche nei partiti o nelle società. Ma non è indagata di nulla di fatto, lei stessa dice. No, però non sono io le assicuro che negli ultimi anni c'era una forte sensazione che qualcuno intorno a Umberto Bossi si stesse approfittando delle sue debolezze di salute, che a volte si ripercuotevano anche sulla sua velocità di reazione alle notizie che gli venivano innestate nel cervello. E credo che lui si sia molto arrabbiato e abbia avuto dei momenti tristissimi. Anche ieri si è commosso sul palco, prima ancora di cominciare a parlare, perché ha capito che tante cose credo che gli abbiano raccontato, e di situazioni, di comportamenti anche di persone tutti intorno a lui che gli sono state insinuate nel cervello erano false. E questo è una cosa indegna veramente di un essere umano, indipendentemente dal fatto che sia anche un esponente politico. Quindi il cerchio magico esiste, non è un'invenzione. Non so come chiamarlo, è stato definito cerchio magico, però era un cerchio perverso, secondo me. Un cerchio perverso, di chi se n'è approfittato, di Umberto Bossi. Senta, oggi sul Secolo XIX, il quotidiano di molto radicato a Genova, e l'ex tesoriere vostro Belsito è di Genova, fa lo scoop, cioè ha incrociato Belsito a casa sua, ci sono le prime dichiarazioni pubbliche, e Belsito dice molti all'interno del partito sapevano di come gestivo i soldi, e poi io dimostrerò che ho amministrato tutto senza mala gestione. Lei a Belsito crede? No, guardi, io lo conosco pochissimo, e anche se ho sentito da voi una registrazione ieri sera, ieri notte, tornando della Zanzara, dove Mughini faceva riferimento all'Lombroso, io non credo a queste cose, però... Un po' ci crede, però... E a questo punto, sa, ci sono delle cose che devono essere anche dimostrate, ma... Se c'era qualcuno che era a conoscenza di quanto stesse facendo Belsito, che a sua volta probabilmente poi si è trovato in una catena di io ti do una cosa ma tu ne dai una cosa a me, e quindi una forma di reciproca protezione, se è vero verrà fuori dalle indagini che mi pare che siano in corso e molto approfondite. Il fatto che altri lo sapessero non mi meraviglia, saranno individuati anche loro, e se hanno procurato dei danni dal punto di vista legale saranno perseguiti dalla legge, se hanno procurato dei danni economici e di immagine al movimento subiranno la richiesta ferma di restituzione di quanto hanno avuto e il processo per il danno fatto al movimento. Questo sì. Lei chi vede come futuro leader della Lega? Perché pare che l'acclamazione sia per Roberto Maroni. Lo vede un buon leader per la Lega futura? Io sono in ottimi rapporti con i due Roberti, con Roberto Maroni e con Roberto Calderoli. Hanno capacità diverse tra di loro e hanno delle specializzazioni diverse. Io tempo fa sognavo che si mettessero assieme, perché se si fossero messi assieme a gestire sotto l'ala sempre vigile di Bossi il movimento, probabilmente non ce ne sarebbe stato per nessuno. Credo che oggi questo non sia più possibile. Ma sono anche convinto che, essendo due persone di grande intelligenza, sapranno convivere indipendentemente da chi sarà il leader. Però uno o l'altro, lei chi preferirebbe? Si sbilanci, guardi, dai. Mi spiace per Roberto Calderoli, ma in questo momento ci sono anche questioni di opportunità politica e di fiuto della base, e mi pare che i consensi vadano in modo evidente nei confronti di Roberto Maroni. Roberto Maroni, ma proprio Bossi Umberto è archiviato, cioè la possibilità che possa ricandidarsi lui e rimanere. Beh, io credo che lui stesso abbia capito che, essendo solo e credo anche in grande contrasto interno alla propria famiglia, non possa avere la lucidità, ma soprattutto sarebbe di impedimento a un nuovo corso che se lui lo affiancasse da esterno, prestando il suo nome, che è sicuramente molto importante, a un nuovo modo di gestire il movimento sempre più normale, insomma, più sì. Come succede nelle sedi di periferia, dove ci si arrabbia, ci si incazza, ci si insulta e poi si esce insieme a mangiare la pizza o bere il caffè. Non era più così la Lega oggi, e se lo ridiventa lo sa. sarà anche insieme a Bossi. Un'ultima battuta è sulla vicenda personale politica sua, Presidente Pirovano. Lei è uno, forse gli ascoltatori non lo sanno, dei pochissimi, forse l'unico, che da senatore, quando era senatore, e presidente di provincia, quando è intervenuto la legge sull'incompatibilità, ha detto vabbè, sapete che c'è, mi dimetto in attesa di sapere, perché tanto a me non frega niente dello schiaccificio di bottoni di Roma. Cos'è lo schiaccificio di bottoni? Il Parlamento. Il periodo del governo Berlusconi, ma ancora di più l'avvento del governo Monti, ha messo in condizione i parlamentari, che sicuramente devono essere rivisti di numero, e ricordo che se fosse passata la modifica della Costituzione, della devolution del 2005, sarebbero già oggi quasi la metà, ma il referendum l'ha bocciata. Quindi essere lì e essere soltanto dei supporter automatici o dei contrari senza speranza a delle proposte di legge, come succede da tanto tempo, forse da un anno e mezzo o due in Parlamento, con i due governi, non sto facendo riferimento in modo specifico né a Berlusconi né a Bossi, sì, è un po' deprimente. È deprimente. Attendo io da anni. Beh, c'è lo stipendio però che insomma, sì, alla fine del mese però, almeno uno si consola con quello. Sì, però le assicuro che ci sono delle cose più importanti. Io ho deciso di dimettermi perché, facendo anche il presidente, e dopo di me c'è stata una sentenza della giunta delle immunità che diceva che un presidente della provincia può continuare a poteva rimanere, sì, se lei non si dimetteva non succedeva nulla. Non mi succedeva nulla e non mi sarebbe successo nulla neanche da un punto di vista di quella che viene chiamata la pensione, del vitalizio, perché avendo io già 62 anni compiuti, sì, e essendo lì da 18-19 anni, non mi cambiava niente anche se restavo, cioè non avrei avuto alcun danno. Ho preferito fare una scelta prima che qualcuno me lo imponesse. È un'abitudine che ho usato spesso nella vita, perché mi piace chiamarmi un po' fuori dagli schemi. Però schiaccificio di bottoni è bella come definizione, schiaccificio di bottoni. Sì, che poi i bottoni sono solo due, perché la stensione sì, non no, ha esatto. O sì o no. E mi piace di più fare l'amministratore, sono cose un po' più concrete, anche in questi momenti di grande siccità finanziaria, perché ci hanno tagliato di tutto, anche nel dubbio che le province non ci saranno sì. più. E poi diciamo, il Senato è a Roma, diciamolo francamente, è a Roma, già questo. Ma guarda, io dopo tanti anni non ho questa idiosincrasia a Roma. Siamo un po' abituati. È anche una bella città e i romani sono anche simpatici, quindi non è quello il problema, non è una questione di latitudine, i cretini ci sono uniformemente spalmati su tutto il territorio. Su questo non c'è dubbio, Presidente, io qui la devo ringraziare e fermare, grazie per essere stato con noi. Grazie a lei, buon lavoro. Presidente della provincia di Bergamo, Ettore Pirovano della Lega. Lega e terremoto Lega, che ha aperto un terremoto, un vaso di Pandora più grande, quello del finanziamento pubblico ai partiti, i rimborsi elettorali. Ora tutti si affrettano a dire cambiamo la legge. E beh sì, capiscono che l'opinione pubblica non ne può più. Allora, i leader di partito ora sembrano tutti dei ciclisti all'ultimo chilometro di una tappa del Giro d'Italia, pronti a fare lo sprint, a dire ecco, sulla legge il finanziamento dei partiti la vogliamo cambiare. Dopo il caso Lusi, dopo il caso Belsito, insomma ex Margherita e Lega, torna prepotentemente alla ribalta il tema del finanziamento dei partiti, finanziamento pubblico che non ci stancheremo mai di dirlo, fu cancellato da referendum popolare 20 anni fa e reintrodotto sotto forma di rimborsi. Ora pare che oggi sia la data entro la quale si vuole cambiare tutto. Ma si vuole davvero cambiare? Ne vogliamo parlare con Antonio Polito, editorialista del Corriere della Sera, che saluto. Buongiorno Polito e benvenuto. Buongiorno a voi. Tra l'altro con noi c'è anche un onorevole, Daniele Galli, Future Libertà. Buongiorno onorevole Galli, eccoci qui a parlare. Buongiorno anche di una sua proposta di legge tra poco. Prima però Antonio Polito ieri concretamente ha detto: cari partiti, volete cambiare tutto, cambiamola la legge, però intanto succede una cosa più a stretto giro di posta, più contingente, più vicina nel tempo e forse vicina al sentore dell'opinione pubblica. Scade a luglio, credo Polito, la tranche ultima di 100 milioni di euro che voi partiti vi dovete intascare per la legislatura attuale. Potreste per cortesia rinunciare a questi 100 milioni di euro? Polito, lo faranno i partiti? Beh, io mi auguro di sì, non lo so, ma mi auguro proprio di sì. Fra l'altro vedo che è una proposta che ha raccolto numerose opinioni favorevoli, anche autorevoli, a partire per esempio da quella dell'ex ministro Frattini. A me sembra una misura inevitabile, indispensabile, non soltanto dal punto di vista morale, dopo gli scandali che ci sono stati, ma anche da un punto di vista di principio, nel senso che se i partiti vogliono cambiare la legge e dicono di volerlo fare, vuol dire che che concordano sul fatto che quella attuale fosse sbagliata, e allora se cambia la legge precedente va via, quindi anche con i finanziamenti che erano previsti per luglio, e si fa un inizio, si parte da capo con un sistema nuovo e con le regole che saranno fissate. Sì, però, nuova legge e intascare i soldi della vecchia. Sistema nuovo, Polito, io ho sentito delle grandi dichiarazioni a dire facciamo controllare tutto dalla Corte dei Conti, rendiamo tutto trasparente da magari agenzie di certificazione esterne, oppure tutto desumibile online e controllabile dai cittadini. Ma ho sentito poche proposte a dire i soldi ai partiti sono troppi, ecco, da parte dei partiti stessi. Veramente non ne ho sentita nessuna di questo tipo, di tutte le proposte presenti di legge presenti in Parlamento e delle nuove che probabilmente oggi si aggiungeranno, si parla sempre e soltanto di più trasparenza, intendiamoci, va benissimo, ma mai di meno soldi, mentre qui il problema è meno soldi, perché la crisi che stiamo vivendo, i due scandali di cui tu parlavi, sono frutto del fatto che i soldi sono troppi. Nel senso che i partiti non riescono neanche a spendere tutto quello che mettono in cassa, e poi si devono industriare a spendere questi soldi o a investirli, allora vanno in Tanzania, vanno a Cipro, oppure il tesoriere impazzisce e si compra le case e così via. Quindi la chiave della crisi è il quanto, devono assolutamente intervenire su quello e devono riagganciarlo alle spese, anche con un rapporto percentuale, perché siccome il finanziamento pubblico non è più possibile a causa di un referendum che lo bocciò, e siccome questa legge attuale parla di rimborso spese, ci deve essere un rapporto con le spese. Sì, non certo, è un rimborso e prendere 10. Questo quello che invece avviene, tra l'altro contrappasso leghista incredibile, i soldi in Tanzania dati, 4 milioni e mezzo pare siano stati rifiutati da una banca della Tanzania. C'è contrappasso più incredibile di questo, un po' come la storia dei soldi forse rifiutati da una banca svizzera a Emilio Fede, forse, per carità. Ironia a parte, io vorrei chiedere questo all'onorevole Dario Galli di Future Libertà. Ieri Sergio Rizzo sul Corriere della Sera ha raccontato in una pagina un altro dei paradossi italiani, quello per cui i finanziamenti fatti da privati ai partiti, la cosa è assolutamente possibile, possono godere attualmente di uno sgravio fiscale 51 volte più favorevole rispetto a un privato cittadino che versa un contributo, per esempio, alla ricerca sulla leucemia infantile. Ecco, il paradosso, onorevole Galli, è che in una proposta di legge, lei col collega Lehner, certo volete tagliare il finanziamento ai partiti, i soldi ai partiti, però proponete di aumentare questa detrazione fiscale, questo sgravio fiscale, dal 19 al 70% di chi dà soldi ai partiti. Perché questa soglia così alta? Ma guarda, intanto noi vogliamo che tutti i partiti assumano una personalità giuridica, il che significa che tutti i partiti sono obbligati, come una normale società, a presentare bilancio. E poi la nostra proposta di legge riduce quello questo che ci mancherebbe, pubblico, ci mancherebbe, onorevole, ci mancherebbe, ci mancherebbe. No, ma finora non è così tra le altre cose. Questo, no? È incredibile. Ecco, è di fatti. Tanto poi la nostra proposta riduce sensibilmente del 30 e oltre per cento quello che è l'attuale finanziamento pubblico ai partiti. Il 70% di defiscalizzazione è stato posto per poter creare quell'inversione del ruolo tra il finanziamento pubblico e il finanziamento privato. Ovviamente è un'esagerazione, ma noi al termine della proposta di legge deleghiamo il governo a stabilire e a rendere poi effettivamente il testo della normativa rispetto ad alcuni principi essenziali che noi stabiliamo. Cioè, avete fissato questo tetto di 70% quasi come paradosso. Però guardi, sì. Ieri Sergio Rizzo, per fare un esempio, e io lo leggo dal Corriere e così è chiaro a tutti, mentre oggi chi versa 200.000 euro a un partito può risparmiare con le detrazioni, sgravi fiscali, 19.570 euro, se passasse la vostra soglia del 70% di sgravi, uno dà 200.000 euro e fa gravare sulle spalle dei contribuenti 140.000 euro di questo versamento da privato cittadino al partito, quando invece se uno fa una donazione alla ricerca sul cancro ha una detrazione, non so, del 2, del 3%, capisce che messa così è molto impopolare come proposta. Guardi, io sarei per la totale defiscalizzazione di tutto quello che è fatto alla ricerca e al sociale e all'assistenza. Andrebbe fatto prima quella legge, allora, forse. Certo, ma ci sono tante cose che vanno adeguate nella normativa italiana. Chiaro, e bisogna arrivare per step, bisogna arrivare per gradualità, specie verificando il contesto attuale, che è un contesto di profondo, potrebbe dire, deficit dal punto di vista delle entrate e delle possibilità di gestione nell'ambito della finanza pubblica, per cui innanzitutto la riduzione di quello che finanziamento ai partiti è doveroso, poi bisogna adeguare tutto il resto. Certo che dico, per carità, lei non è il Parlamento, lei è un rappresentante del Parlamento, però fa un po' specie dire ci vorrebbe prima una legge su quello, bisogna ridurre il finanziamento ai partiti, perché i cittadini si chiedono ma perché non lo fate? Forse da questa domanda voglio ripartire dopo le informazioni sul traffico con Antonio Polito, cioè perché l'opinione pubblica dice ma perché abbiamo tolto con un referendum popolare il finanziamento ai partiti e ce l'hanno rimesso dalla finestra quello che avevamo tolto dalla porta, e perché adesso dicono bisogna tagliare e non lo fanno? E allora 800 24 00 24, prima di tornare agli ospiti vogliamo sentire un po' il polso dei nostri ascoltatori, che ne pensano, credete davvero a una classe politica che dice no ma adesso tranquilli cambiamo questo finanziamento ai partiti? Luca da Cesena, buongiorno Luca. Ah, buongiorno, sono qua. Dica. Sì, rispondo io alla sua domanda, anzi rispondo con una domanda che vi giro. Che credibilità può mai avere una classe politica che è lì con la borsa piena di soldi, sono pieni di soldi questi partiti, in questo sistema ci hanno sguazzato fino adesso e poi nel giro di 4 giorni no, bisogna cambiare questa legge. Che credibilità, ai miei occhi di lettore, zero, nessuna. Che mettano il finanziamento con il 5 per 1000 sulla dichiarazione dei redditi per vedere che credibilità possono avere. Quanta gente manda il tesoriere di turno in vacanza alle Maldive con i soldi dello Stato? È una proposta che è stata fatta, tra poco le risponde anche Antonio Polito, perché questa è una delle idee in campo, mettere il finanziamento col 5 per 1000, la destinazione degli italiani. Andreino da Vicenza, buongiorno. Pronto? Sì, Andreino. Buongiorno, senta, io vorrei fare una piccola premessa. Io sono un cittadino italiano, lei è un cittadino italiano. Per me gli onorevoli che stanno parlando, che stanno discutendo di questa cosa, non sono cittadini italiani, perché vivono su un altro pianeta, il loro pianeta. Il loro pianeta che viene sovvenzionato con i nostri soldi. Ora, quello che vorrei dire io, perché devono essere sovvenzionati questi partiti quando possono farsi degli autofinanziamenti con dei privati che vogliono dare, e giustamente non è giusto neanche la detrazione che possono avere a fronte su una donazione che possono fare per cercare il cancro. Uno. Due, non mi sento cittadino italiano perché dal 1892, quando ho visto quel film Lo scandalo della Banca Romana, mi sono tirati i capelli, perché dal 1892 ad oggi non è cambiato niente nulla. Dal 1892, lei la prende da distantissimo. Ma molto distante, perché se lei vede quel film, Lo scandalo della Banca Romana, che è ambientato nel 1892, sì. Parallelamente, su un altro schermo, vede la vita attuale, corruzione per finanziare le campagne elettorali, dove è stato implicato un certo Giolitti, un certo Crispi, un certo Sterzo. Sì, sì, insomma, allora, lei oggi dice tutto quello che vede già nel 1892 lo ritrova oggi, trasportato nella realtà attuale. Siamo nati marci. Siamo nati marci addirittura. Sì, perché la nostra Repubblica, la nostra Costituzione è stata fondata quando è stata costituita la Banca d'Italia, è andata a coprire tutti i debiti e tutta l'inflazione che hanno creato quel sistema di stampare soldi doppi, sì, sì. Che hanno messo in piedi la Banca. da quando nasce la Banca d'Italia non è che si azzera, cioè hanno azzerato tutto quel debito. Vabbè, diciamo adesso non abbiamo tempo per ricostruire tutta la storia finanziaria e politica del paese, però Antonio Polito, questo è un po' il polso della situazione, cioè la gente non ci crede più, non crede più a questa classe politica, però questa classe politica è quella che si è impegnata a rivedere le regole del finanziamento ai partiti. Si era detto un tempo bisogna dare dei soldi ai partiti, altrimenti i partiti sono costretti a rubare. È un argomento che regge? Ma no, anzi direi che il fallimento di questa legge sta proprio lì, nel senso che io sono dell'idea che una forma di finanziamento del pubblico sotto forma di devoluzioni private e pubblico anche sotto forma di una quota che lo Stato versa direttamente ai partiti in ragione della loro forza elettorale sia non solo legittima ma necessaria, cioè in tutta Europa, in tutte le democrazie europee, ma il problema è che negli anni i partiti nel silenzio, facendo le cose senza neanche portarle in aula certe volte in Parlamento, ma in Commissione, si sono piano piano sistemati questa cifra e i modi in cui viene pagata in maniere che sono inaccettabili. Allora, adesso sono scoppiati due scandali che impongono loro un cambiamento, ma questa situazione era evidente e denunciata da anni. Quindi i partiti hanno perso credibilità da questo punto di vista, così come l'hanno persa acconciandosi una legge elettorale, quella attualmente in vigore, che consente ai segretari di partito chi farà il parlamentare. Queste due cose insieme hanno certamente rovinato, diciamo così, l'immagine di questi partiti, che tra l'altro sono in gran parte nuovi, sono partiti venuti fuori dallo scandalo di Tangentopoli e completamente nuovi. E che dobbiamo pensare, Polito, invece della proposta dell'onorevole Galli, che è qui a metterci la faccia, a dire sì, io voglio ridurre il finanziamento ai partiti, però voglio aumentare paradossalmente al 70% gli sgravi fiscali di un privato che fa un versamento a un partito. Guardi, diciamo, ferma restando una base minima per appunto il rimborso di spese rendicontate, secondo me è giusto ricorrere ai finanziamenti privati. Naturalmente gli sgravi fiscali devono esistere, perché incentivano il privato a finanziare il partito, non possono riguardare contributi sopra una certa soglia, perché se ad esempio io parlava di 200.000 euro, ma sì, chi dà 200.000 euro a un partito? Solo un'azienda, un imprenditore, uno che li dà anche con qualche altra ragione, che non è solo la simpatia per il partito? Allora in quei casi non si può premiarli con uno sgravio fiscale così consistente, però invece contributi di 1.000-2.000 euro, cioè di singoli cittadini, giustamente secondo me dovrebbero essere molto incentivati, come del resto avviene negli Stati Uniti, dove la politica si regge sostanzialmente e anzi esclusivamente sul finanziamento dei privati. Laddove però se io gli do la ricerca sul cancro non ho lo stesso sgravio fiscale. Questo è giusto, però in questo momento la domanda era su come finanziare il sistema dei partiti. Io penso che sia giusto avere diciamo così, un sistema di finanziamenti privati, per esempio col sistema del 5 per 1000, che, guardi, questa è una cosa importante, purché il cittadino possa indicare a quale partito vanno i soldi, perché se invece facciamo che una percentuale di quei soldi fissato dallo Stato va ai partiti che poi se la spartiscono secondo i loro voti, allora torniamo al sistema attuale. Beh, chiaro. Invece il finanziamento deve essere diretto. Sì, il 5 per 1000 prima era stato identificato, veniva messo in un calderone e poi distribuito. Invece uno il 5 per 1000 se lo vuole mettere, che deve dare un'indicazione. Cioè io lo voglio dare al partito X e al partito X devono andare. Vorrei sentire anche Annalisa da Milano che ci ha chiamato. Annalisa, buongiorno. Sì, buongiorno dottor Milan. Io volevo solo sapere una cosa: perché per spostare l'età pensionabile ci hanno messo meno di un mese, attiva da subito, dal 1 gennaio, immediatamente quando l'hanno deciso al 5 di dicembre, mentre invece per togliere o anche soltanto un euro dal loro stipendio o dai loro finanziamenti non si decide mai e non c'è mai modo e metodo per poterlo fare. Annalisa, che vuole che risponda a questa domanda retorica? Lei ha una risposta a questo? Le giro io la domanda alla sua domanda. Lei ha una risposta a questo, Annalisa? Purtroppo no, però che dobbiamo pagare alla fine della fiera siamo solo ed esclusivamente noi. Che amara conclusione. Devo concludere la puntata così, con questa amarezza, Annalisa. Mi tiri un po' sul morale, perché devo chiudere. No, ma capisco l'amarezza, è anche condivisibile per certi versi. La ringrazio Annalisa, così come ringrazio Antonio Polito, editorialista del Corriere della Sera, e l'onorevole Daniele Galli di Futuro e Libertà. Che dire, ci trovate anche su Twitter, sì, @LinoMilan, @24Mattino, e ci troviamo domani alle 7:20.